sveglia vuota, fuga c'è in loro aspetto, è luna tutta via. Sembianza fede tua mai ascoltea, contratta più lo sdegno e pia. Sove femmini il bellezza nell'altro, per caso io ti m'invenni, e ma Gregorio nel suo castello ospitò Maria vidi un subito lampo al primo sguardo di quella giovinetta in cor mi cede, era somiglio dell'aerea donna, era il bello, era il muto, era il fave col patamel, che in sogno mi sorride tante fiate, e sol pallida meno la guancia di Maria, sol meno immota la pupilla. Cara creatura, ogni grazia incantatrice, parea scesa dal cielo. Io, sulla febbre amorosa infiammata, apri le braccia per serrarmela al persona in uno specchio di riflessa. Per io quel nevuoto uomo che tendea con tal desio le mani a quella donna nebulosa. Sogno fu quello, non più che un inganno di calda fantasia. Ce n'era tanto, tanto acceso d'amor, in quel punto si volse a me Maria, che gli occhi nostri si confusero insieme coi nostri cuori. Ah! ti le pugnon che a me si volpe, e con me parlo in chino, e con parola di ciel. Ah, rispose, lo sento ancora quel no dietro di me. Lo sento ancora quel no, ah, per ritorno sul capo mio.